Buon pomeriggio e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko ad Anna Di Martino, direttrice del Festival Visioni Italiane. Salve a tutti, ciao. Allora, siamo qui oggi per parlare del Festival Visioni Italiane, appunto un grande festival per la Cineteca di Bologna che ha rappresentato un baluardo di qualità per quelli che sono stati poi gli esordi di grandi registi. Siamo al 27esimo anno. Cosa è cambiato in questi 27 anni? Cosa significa essere arrivati a un traguardo del genere con questo festival? È una grande soddisfazione poter aver avuto l'occasione di vedere le opere, gli esordi, le opere prime di tanti autori che adesso sono autori importanti e affermati, tanti autori che appunto hanno iniziato con i loro cortometraggi presentandoli al festival, ora sono nelle sale e ottengono successo. Basta pensare a Miniero, Genovese, a Munzi, a Mainetti che col suo prossimo film uscirà la prossima settimana con Freaks Out, e a Matteo Rovere, a tanti autori che in questi anni sono riusciti a imporsi nel cinema italiano e che sono passati da Visioni Italiane e hanno presentato qui i loro primi film. Questo è un festival che, abbiamo detto in conferenza stampa, aveva una tradizione in primavera soprattutto. Adesso siamo trovati a dover spostare in questo momento di ottobre. Il festival inizierà questo lunedì, il 25. È evidente una voglia di tornare in sala, per i registi, per il pubblico. Qual è la visione per come andrà questo festival? Cosa ci possiamo aspettare? Intanto siamo contenti del fatto che appunto possiamo ritornare in presenza e da pochi giorni la possibilità delle sale al 100%, quindi comunque questo ci rende molto contenti. È stato un anno molto duro e difficile per le sale, per gli autori comunque hanno continuato la loro produzione e siamo stati costretti ad andare a ottobre perché nel periodo classico del festival, cioè marzo-aprile, le sale erano ancora chiuse. Speriamo il prossimo anno, facendo uno sforzo, di ritornare in primavera proprio per non sovrapporci anche a tante altre manifestazioni che ci saranno e ci sono in regione e quindi insomma ritornare nel nostro periodo classico. E speriamo che appunto quest'anno c'è ancora qualche difficoltà, la necessità di fare il tracciamento e quindi non l'accesso libero come era prima in sala, però comunque è sicuramente una situazione molto positiva e migliore rispetto a quella che è stato insomma negli ultimi tempi, quindi andiamo avanti. Una tradizione però è evidentemente rimasta, quella di avere un programma di grande, grande, grande qualità. Soprattutto anche un interesse alle collaborazioni, ci sono alcuni premi, alcune rassegne, una lunga serie di interventi e di anteprime. Vuole darci qualche anticipazione, qualche suggerimento su quali sono delle cose assolutamente da non perdere? Da non perdere sarebbe tutto il festival, però mi rendo conto che non è facilissimo. No, ci sono tante cose curiose, particolari e anche appunto le cose che sono meno note vale la pena scoprire. Le opere che abbiamo selezionate sono state selezionate su più di 600 lavori che sono arrivati, quindi comunque veramente un'operazione di cesello, di scelta molto accurata su quello che abbiamo deciso di mostrare. Quindi sicuramente i cortometraggi e anche i documentari, ci sono alcuni documentari molto interessanti anche per le tematiche che affrontano, il discorso sulla violenza sulle donne e il discorso anche in qualche caso accennato sulla pandemia, e insomma tante situazioni che vale la pena approfondire. Poi ci sono i lungometraggi e opere d'esordio di autori che appunto riteniamo importanti, come appunto dicevamo Il Legionario di Gleb Papù, come The Brotherhood di Francesco Montagnier, come Anima Bella di Dario Albertini, insomma tanti film che vale la pena vedere e che insomma non si devono perdere per chi è amante del cinema. Assolutamente, quindi noi non possiamo far altro che aspettare questo inizio lunedì 25, ricordiamo, al Cinema Lumière qui in Cineteca. Non vediamo l'ora di poter partecipare, facciamo un grande in bocca al lupo. Crepi, e vi aspettiamo tanti. Grazie mille, salve.